Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis. Settimana scorsa abbiamo parlato di come l'introduzione nei condomini con sistema di riscaldamento centralizzato di un sistema di contabilità individuale del calore e anche di semplici sistemi di regolazione del riscaldamento nei diversi locali producano come effetto una maggiore consapevolezza dei consumi e quindi una maggiore attitudine al risparmio. Ecco, tutto ciò però riguarda il sistema a valle della centrale termica, quindi tubi, radiatori e così via. È però del tutto evidente che il cuore del sistema di riscaldamento, cioè appunto la caldaia, insomma, gioca un ruolo decisivo nell'efficienza di tutto l'impianto. Spesso però la possibilità di sostituire la centrale termica con una più efficiente si scontra coi costi dell'intervento, che non sono trascurabili. Stasera quindi ci occupiamo di una tipologia di contratto poco nota che consente di superare appunto questo tipo di problemi, il contratto servizio energia. Per l'occasione è tornato a trovarci Pierangelo Isolani, che è l'esperto di risparmio energetico di Adiconsum. Buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, il contratto servizio energia comporta un cambiamento di paradigma radicale nell'oggetto, io direi proprio, della fornitura, che non è più il combustibile ma il calore. Allora, Isolani, ci spieghi un po'. Una delle difficoltà che taluni condomini, ma soprattutto gli uffici pubblici, scuole, uffici, eccetera, provano nel mettere a migliore efficienza energetica i propri edifici, sta proprio nel fatto che c'è una difficoltà o di alcuni condomini o delle amministrazioni pubbliche di anticipare i soldi necessari a fare gli investimenti per modificare e migliorare l'impianto di riscaldamento, sia come centrale termica, sia come termoregolazione e contabilizzazione del calore. Da questo punto di vista la legge prevede la possibilità di realizzare un contratto servizio energia che, come diceva lei, cambia proprio il paradigma del rapporto contrattuale. Non si acquista più il combustibile e i servizi di manutenzione della caldaia e poi si paga quello che avviene, ma si fa un contratto con una società, con una ESCO, cioè una società che fa l'analisi della efficienza, degli interventi di efficienza energetica che sono necessari nell'edificio, e se è necessario cambiare la caldaia oppure, oltre alla caldaia, fare un impianto di termoregolazione migliore o un impianto di contabilizzazione di calore, insomma quello che è necessario per mettere a piena efficienza quell'edificio, le società ESCO stipulano un contratto di servizio energia di una validità pluriennale. Naturalmente il pluriennale è in funzione degli investimenti che sono necessari, se sono pochi saranno solo qualche anno, se sono molti saranno anche 7-8 anni di durata del contratto servizio energia. Che cosa significa? Significa che mettendo un contatore di calore a valle della caldaia di produzione della centrale, il contratto prevede il pagamento di un X per ogni kilowattore di calore consumato. Quindi che cosa avviene? Si innesca un meccanismo virtuoso, cioè la società che ha sottoscritto il contratto di servizio energia e gestisce la centrale avrà tutto l'interesse a comprare al minor prezzo possibile il combustibile, a fare una manutenzione accurata e quindi a produrre il kilowattore di calore al prezzo più basso possibile. I condomini o gli uffici pubblici dall'altra parte, con un sistema di termoregolazione e di contabilizzazione appropriato, avranno tutto interesse a consumare il meno possibile, perché così pagano un numero inferiore di kilowattori consumati. Questo meccanismo è talmente virtuoso che la legge ha previsto che l'IVA sia pagata con un'aliquota ridotta al 10%. Anche se in questo momento questa questione è momentaneamente sospesa, noi ci auguriamo che possa trovare una valida soluzione in breve tempo, quanto prima. Certo. Io vorrei dare anche un altro dato che mi pare abbastanza importante. Adiconsum, insieme ai suoi collaboratori, diciamo tecnici, stiamo monitorando circa 60 condomini in cui è stato instaurato questo sistema. Quindi ci sono dei casi concreti da citare. 60 diciamo. Condomini che da 4-5 anni hanno in funzione questo sistema. Bene, mediamente si risparmia dal 35 al 45% rispetto alla bolletta energetica degli anni precedenti. Ecco, aggiungerei che c'è un altro immediato vantaggio nel fatto che non bisogna più preoccuparsi di tutta quell'insieme di pratiche che bisogna fare, per esempio per mantenere la caldaia in ordine e così via. Ci si dimentica completamente del riscaldamento. È una semplificazione per i condomini, ma per esempio per, soprattutto per l'amministratore condominio, ma ed anche per l'amministratore locale. Gli amministratori locali veramente finora hanno un modo di gestire il riscaldamento dei loro edifici che è un modo antiquato, perché c'è l'ufficio ragioneria che paga e non si preoccupa di cosa paga, gli arriva la fattura e se la paga. C'è l'ufficio tecnico che non sa quanto gli costa i lavori che fanno, e quindi ogni tanto si chiama la ditta di fiducia a far ripartire la caldaia. Cioè è un sistema veramente antiquato e costoso. Certo, invece qui si accentra tutto nelle mani di un solo soggetto che ha tutti i motivi per tenere al massimo l'efficienza dell'impianto di riscaldamento. Credo che ha compreso perfettamente il senso ed il significato di quel circolo virtuoso che accennavo all'inizio. Insomma, avete capito, una quota tra il 35 e il 45% della bolletta energetica può essere risparmiato rivolgendovi a una ESCO che sostituisce o ammoderna l'impianto di riscaldamento e realizza l'impianto di contabilizzazione del calore. E lo ricordiamo, a costo zero. La ESCO infatti finanzia il proprio lavoro trattenendo una quota del risparmio energetico conseguito. Questo è tutto, vi ricordiamo di iscriverci a mrkilowatt@radio24.it. Domani sera parleremo dei discendenti delle persiane, le protezioni solari.